edizione. Sono le 6, 14 minuti e 20 secondi, una notizia dall'estero, dal Sudan. Centinaia di soldati del Sud Sudan sono stati uccisi nella battaglia per il controllo di Hegli, che è la zona petrolifera più importante del paese, contesa dai due paesi. Lo ha reso noto Khartoum. Il numero dei morti nell'esercito sud-sudanese e tra i mercenari nella battaglia è di 400, ha detto Ali Nafieh, vicino al presidente Omar al-Bashir. Questa è la notizia, ci ritroviamo tra un attimo per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 49 secondi. Vediamo di dare un'occhiata dunque a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E allora, come potete ben immaginare, le aperture sono dedicate in gran parte alla questione delle elezioni francesi, come è ovvio, con letture simili ma diverse almeno nelle titolazioni principali da parte dei principali quotidiani italiani. È Hollande in testa e Sarkozy che spera ancora, e Sarkozy che non cede, per Corriere della Sera e Messaggero rispettivamente. La Repubblica sceglie di puntare sull'estrema destra, sulla forza dell'estrema destra. Hollande avanti, uragano Le Pen, questo è il titolo della Repubblica, e La Stampa: Hollande avanti, Sarko lo sfida. Questi i titoli per quanto riguarda la questione della Francia, mentre invece cambiano un po' le cose, e poi magari andiamo a vedere anche qualche titolo per quel che riguarda gli editoriali, però cambiano un po' le cose per quel che riguarda le scelte del resto della prima pagina, perché c'è molto di dedicato alla cosiddetta spending review, ossia la revisione della spesa, ma ci sono impostazioni diverse e anche interviste diverse interessanti a cui dare un'occhiata, quantomeno nelle loro linee generali, a partire direi dal Corriere della Sera, nel quale in una intervista il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nega di frenare sul piano di tagli la spesa del governo, e dice: vorrei ridurre del 10% i dipendenti civili del ministero grazie ad uno scivolo, un pensionamento anticipato senza traumi. Se il governo mi dà l'ok, io vado dai sindacati. Così, scusate, il ministro Anna Maria Cancellieri, intervistata dal Corriere della Sera. Sempre per rimanere sul quotidiano, naturalmente, ci sono due foto affiancate, una di calcio giocato e una di quello che è successo a Marassi, che insomma si fatica a definire calcio, naturalmente. Quindi è un Juve verso il titolo, quello che, del quale si parla di campionato, battuta la Roma, pari del Milan. E Genoa in ostaggio è il titolo invece dedicato a quello che è successo a Marassi. Piuttosto divertente, ve lo segnaliamo, in merito al tema della lotta all'evasione, la notizia che riporta Mario Sensini, sempre sul Corriere della Sera: effetto controlli, vendite boom della carta per scontrini, affari d'oro per l'industria dei prodotti fiscali, scrive Sensini dopo i blitz antievasione. Produttori e rivenditori di rotoli di scontrini, ricevute, bolle di trasporto hanno incrementato le vendite del 14% addirittura. A proposito di Francia, i due commenti sono di Massimo Nava: la sfida finale nelle mani di chi protesta, scrive, e le estreme li si tagliano, da noi no, di Michele Salvati. E quindi si parte, come dire, con i paragoni con l'Italia. Veniamo alla stampa titola appunto Hollande avanti, Sarkozy lo sfida. Il pezzo dell'inviato a Tulle Marco Castelnuovo è dedicato a Hollande, è la marcia dell'uomo normale, e un commento invece dedicato a Sarkozy di Alberto Mattioli: il presidente sterza subito a destra. Segnaliamo dalla stampa una storia interessante che arriva dall'estero e riguarda Vladimir Putin. Dopo la vittoria elettorale, capitali in fuga dallo zar Putin, gli oligarchi temono un giro di vite dagli uomini del presidente, sulla via dell'estero ben 80 miliardi di dollari. Naturalmente, grande titolo dalla stampa, quotidiano torinese, per la Juventus, Juve travolgente, fuga per lo scudetto. È interessante il Messaggero, ve lo segnaliamo, al di là del titolo quasi scontato sul tema delle elezioni in Francia, è interessante perché sulla Spending Review ha un colloquio con il ministro Giarda, che come sapete è il ministro per i rapporti con il Parlamento, ma è stato quello incaricato dal Presidente del Consiglio Mario Monti di mettere a punto proprio questa Spending Review, questa revisione della spesa. Colloquio con il ministro Giarda, serve una task force, passerà, si può crescere. Ecco il piano dei tagli alla spesa, risparmi di 13 miliardi in 2 anni. Questi sono gli obiettivi, quindi un obiettivo notevole, e c'è un focus dedicato a questo dal Messaggero: costi in calo per statali e acquisti. Il caso che ci viene segnalato dal Messaggero: niente invito a Polverini e Alemanno, scoppia la polemica per il 25 aprile, un pezzo a firma di Claudio Marincola. Mentre invece per quanto riguarda il calcio, la vergogna ultra a Genova, ma anche il titolo dedicato all'altra faccia della medaglia della vittoria della Juve, ossia la Roma che crolla, e il pareggio per la Lazio. Veniamo alla Repubblica, che come si diceva parla di Hollande avanti, uragano Le Pen, un titolo dedicato alla stessa Le Pen, che dice: Marine la dura, Nicolà è finito. E poi Bersani, parla Bersani: anche da noi cambierà il vento. Sempre sulla Spending Review, anche qua un titolo diverso, un tema diverso: Palazzo Chigi scatta l'austerity, basta voli di Stato e consulenze per dare l'esempio ai ministri. E nel frattempo appunto arriva la task force, la richiesta almeno di una task force per i tagli ai ministeri. E sugli esodati ancora scontro tra sindacati e Fornero. Ampio spazio dedicato alla vicenda di Genova, con due commenti: uno a firma di Gabriele Romagnoli, la vergogna e la viltà, e uno di Gianni Mura, la fame di Conte si intitola, ma parla di due temi. Nella domenica in cui salgono nettamente le quote scudetto della Juve, cala, anzi crolla, l'immagine del nostro calcio. Solo Repubblica, tra i grandi giornali, dedica in prima pagina un titolo a quello che è successo in Bahrain, altra vicenda da segnalare per i suoi aspetti politici molto più che sportivi, perché c'è stato il Gran Premio, ma come sapete un Gran Premio segnato dalle proteste che in realtà vanno avanti da molti mesi in Bahrain, e non solamente mesi. Male le Ferrari, trionfa Vettel, nel Bahrain in fiamme, scrive la Repubblica. Vi vogliamo segnalare, sempre in merito alle elezioni francesi, le due letture diverse che vengono date naturalmente da due giornali diversi, ossia Il Giornale e l'Unità, perché il titolo del giornale è: le elezioni in Francia, sberla all'Europa di Monti. Alle presidenziali la sinistra di Hollande avanti a Sarkozy, che paga l'alleanza con la Merkel, i giochi sono aperti, ma il vero boom lo fa la destra antieuropea della Le Pen, bocciati i diktat e gli amici della Germania. Oddio, abbiamo detto lettura diversa, per certi aspetti c'è qualche parallelo con la lettura dell'Unità, che titola L'Europa può cambiare, ma si riferisce a François Hollande. Francia 2012, Hollande in testa, il socialista a 3 punti sopra Sarkozy nel primo turno delle presidenziali, sorpresa nera, Marine Le Pen al 20%, il ballottaggio tra 2 settimane. Questo il quadro per quanto riguarda alcuni dei giornali. Veniamo a chiudere questa breve rassegna stampa con il Sole 24 Ore. Come sapete, il numero del lunedì è un numero freddo, ma in realtà è molto attuale, perché l'apertura è dedicata a come la crisi ci ha cambiato la vita: imposte a rate, servizi low cost, meno cinema e ristoranti tra i rimedi delle famiglie, dall'alimentare ai trasporti, gli effetti della recessione sulle abitudini degli italiani. Rispetto al 2007 i consumi sono calati dell'1,2%. Commento di prima pagina, firma di Carlo Carboni, slancio morale e rilancio economico oltre l'autorità. Ci sono altre novità che vengono riportate dal Sole 24 Ore. Notizia che il Ministero della Giustizia sta ultimando la stesura del provvedimento con le regole generali per le società tra professionisti, che informa il Sole 24 Ore saranno più aperte. E poi un altro dato interessante, che è la corsa alle lauree online: in un anno un più 40% di iscritti. Questo il Sole 24 Ore, che oggi ha anche in regalo la dichiarazione dei redditi, la guida sulla dichiarazione dei redditi, come risparmiare sulle tasse. E poi il poster del lunedì, la delega tributaria, imprese, studi, cittadini, il fisco volta pagina con il sogno dell'equità. Questo il quadro. È ultima cosa che vi vogliamo segnalare, perché è un tema interessante il quale molto si sta dibattendo: il tema della riduzione delle aliquote. Ebbene, il Sole 24 Ore di lunedì è andato a vedere che cosa succede nei paesi del G7. L'Italia riordina la tassazione sulle imprese e introduce una nuova imposta, l'IRI, senza alleggerire il conto da saldare con il fisco. Gli altri big del G7 invece muovono in direzione opposta, di una sforbiciata alla corporate tax. Dopo Tokyo e Londra, anche gli Stati Uniti e la Francia valutano una riduzione. Prima edizione. 6:34 minuti e 8 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo della Lega nella bufera dopo gli ultimi scandali. Raffaella Calandra è stata nei paesi simbolo del Carroccio, sentiamola. Lingotti d'oro e diamanti, Renato? Mani ruvide di chi ha lavorato la terra per anni sfogliano le pagine della cronaca nel bar più vicino al Sacro Pratone, e tra una partita scopa e l'altra un gruppo di anziani leghisti della prima ora si rintuzzano quasi increduli davanti a notizie e scenari di un altro mondo rispetto a quella pelle indurita di chi non si è mai sottratto alle fatiche. La Lega qui a Pontida, come in gran parte delle valli bergamasche, è dappertutto, come i richiami al giuramento del 1167. E per questo ancora più forte è la delusione per il terremoto innescato dalle inchieste giudiziarie, perché è il suono del tradimento di un patto, come non esita ad ammettere quest'altro sostenitore. Quando uno crede in una persona, come io credo in mia moglie, 50 anni che ero assieme, credevo anche in questo partito nuovo, fa peggio degli altri. Quindi cioè ci credeva nella Lega? Ma come, l'ho sempre votata io, non voto più, ma mi ha abituato come gli altri, non voto più Lega, non so chi voterò, ma non voto più Lega. Non andrà a votare? Oppure io voterà qualcun altro? Per sono un cittadino italiano, vado a votare. Però non trovato portafoglio. Non voterò più Lega. Credevo che era una cosa meravigliosa, invece è stata una bidonata. È andato a sentirlo Marone? No. Neanche a lui si crede? Non si crede più nessuno. La fiducia nella diversità del Carroccio, nelle battaglie del Senatur e in quei proclami gridati nei microfoni dei raduni è stata la colonna portante della Lega, che ha contato sempre su schiere di militanti disposti ad arrostirsi alla melle sotto il sole di giugno, ad obbedire a qualsiasi richiesta del partito, a sostenere la causa anche con soldi propri, a cominciare dall'avventura della banca Credi Euro Nord. Ora colpita quella, la fiducia a suon di inchieste che ipotizzano proprio corruzioni, sprechi e imbrogli, tutto ciò insomma che la Lega diceva di voler combattere, le stesse scope imbracciate da Roberto Maroni sembrano non essere sufficienti ad allontanare la delusione, e lo scetticismo sembra prevalere anche in chi non mette in discussione il suo voto. Gli italiani che è un popolo di delinquenti, però alla fine voto ancora la Lega. Io, personalmente. Polizia, Roma ladrone, tutto il resto. Ma siamo italiani, signora. Gli svizzeri 50 anni fa ci trattavano così e avevano ragione. A chi dobbiamo affidarci? Io personalmente voto ancora Lega. Io ho fatto 40 anni sempre Iraq, Iran, Russia, e io alla sinistra non ci credo. Montavo le macchine in imbottigliamento per la Coca-Cola. Delle dimissioni che ci sono state un po' all'interno del partito, l'espulsione di Rosi Mauro, le dimissioni Boni, di Renzo Bossi, fatto bene o male? No, ho fatto bene, per me ho fatto bene, chi sbaglia paga. All'ultimo raduno la gente, i militanti invocavano già Maroni, e adesso Maroni è uno dei tre striumviri. Le piacerebbe come futuro segretario? Mettiamolo alla prova. Non si aspettava che succedesse anche la Lega, però tutti i partiti sono uguali finché ci sono i soldi di mezzo. È tutto per ora, ci risentiamo alle 13.30 con la versione integrale del reportage sulla Lega. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Le 6:38 minuti e 12 secondi, di nuovo una buona giornata dunque da Simone Spezia. Noi veniamo a parlare naturalmente a questo punto delle elezioni francesi, del voto che c'è stato ieri, come vi abbiamo ampiamente raccontato anche all'interno dei giornali radio, ha vinto il socialista François Hollande, anche se a dire il vero di misura sul presidente uscente Nicolas Sarkozy, che è, tra l'altro, è il primo presidente francese uscente a non vincere al primo turno, a non ottenere la maggioranza al primo turno, maggioranza relativa, perché come sapete naturalmente si andrà al ballottaggio. Esplosione della destra di Marine Le Pen nel fronte nazionale. Vediamo di, a questo punto, di proiettarci anche sul secondo turno con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, dunque, che cosa ci si può attendere? Le prospettive per il ballottaggio sono comunque favorevoli a Hollande, perché non dimentichiamo che la Le Pen, il fronte nazionale di estrema destra, si pongono in posizione antitetica al sistema, e quindi non ci sarà indicazione di voto da parte del fronte nazionale della Le Pen per Sarkozy, quindi non possiamo assolutamente dare per acquisiti i voti dell'estrema destra a Sarkozy al secondo turno. Secondo gli esperti dei flussi elettorali, dei voti della Le Pen dovrebbero andare circa il 50% a Sarkozy e il 25% però a Hollande, mentre un 25% si asterrebbe. Quindi il riporto di voti dell'estrema destra sul secondo turno non va totalmente a vantaggio del candidato della destra. Sì, questo è chiaro, ma che peso può avere tutto questo nella Francia, questa forza dell'estrema destra nei prossimi mesi e anni? Dire che la destra abbia maggior peso è sempre complicato. Diciamo che avrà sicuramente peso, più peso rispetto al passato, quello che potremmo definire complessivamente il fronte del no. Perché l'altro aspetto interessante di questo primo turno è che, sommando i voti del, diciamo, populista di sinistra Mélenchon con quelli della Le Pen, andiamo oltre il 30%, è il partito più forte, il partito di maggioranza, ed è, diciamo, sono i due partiti che raccolgono maggiormente la protesta, il malumore, la sfiducia, la paura dell'elettorato. Quindi sicuramente chiunque vincerà dovrà fare i conti con a sinistra e a destra, con una quota importante di opinione pubblica francese che va in qualche modo riconquistata alle regole della democrazia classica. Un'ultima nota, Marco, su questa richiesta di Sarkozy di un triplo confronto TV che gli è stato negato da Hollande. Sì, ecco, va detto a questo riguardo che c'era in realtà una sorta, diciamo, di accordo tra i due candidati favoriti, Hollande e Sarkozy, per fare un dibattito tra primo e secondo turno che era già stato sostanzialmente fissato per la sera del 2 maggio. Questa richiesta di Sarkozy francamente dà un pochino l'impressione di un candidato in gravi difficoltà che tenta in qualche modo di risalire la china. Mi sembra di capire che Hollande abbia fatto abbastanza bene a rifiutare subito e nettamente, non si cambiano le regole del gioco a partita in corso. Grazie, grazie dunque a Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, per essere stato con noi e per averci, insomma, dato questo commento, questo primo commento sulle elezioni francesi. Naturalmente a questo punto la grande attesa è per il 6 maggio e per vedere che cosa accadrà in questo confronto a questo punto estremamente serrato. Prima edizione. Noi restiamo sulle elezioni francesi e andiamo a sentire una opinione, quella del politologo Marc Lazar. Prima riflessione, c'è stato un livello di partecipazione piuttosto onesta, inferiore a quello del 2017, ma a un livello abbastanza importante, che significa che questa elezione presidenziale finalmente interessa una grande parte dei francesi. Questo è un elemento importante perché pensavamo tutti che ci sarebbe un livello di astensionismo forte. Seconda osservazione, il candidato socialista fa qualcosa di abbastanza straordinario, cioè il più alto risultato al primo turno di un candidato socialista, più alto di Mitterrand nell'81 e più alto del Mitterrand dell'88. E il totale della sinistra è in progresso di quasi 6 punti in confronto dell'elezione del 2007, quindi progressione della sinistra con una sinistra della sinistra meno forte che quello che si pensava, meno di 12% per me, non so, che è una cosa tradizionale in Francia, questa cultura della sinistra radicale. La terza lezione è il fatto che Nicolas Sarkozy ha perso 6 punti e per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica c'è un candidato presidente uscente, candidato alla sua successione, che non è il primo, alla fine del primo turno, ma è il secondo. Questo è un elemento storico, quindi secondo elemento storico. E ultima considerazione molto importante è il risultato ottenuto ovviamente da Marine Le Pen, 20%, risultato anche questa volta storico, più alto di tutta la storia dell'estrema destra in Francia, e che significa che all'interno della destra, che rimane sempre al 45% in totale, estrema destra e destra repubblicana, 45% era il risultato del 2007, però con un rovesciamento completo all'interno del blocco della destra, con una destra repubblicana quindi a 25%, quello di Sarkozy, e quella di Le Pen a 20%. Ed era Marc Lazar, intervenuto ieri a Rai News 24. Noi cambiamo decisamente argomento e ritorniamo su quello che è successo ieri a Genova, nello stadio, naturalmente, ve l'abbiamo ampiamente raccontato. La partita tra Genova e Siena è stata di fatto fermata dagli ultra, che hanno costretto i giocatori del Genova a togliersi le magliette, a togliersi le maglie. Partita ripresa dopo 45 minuti, una violenza inaccettabile, questi non sono tifosi, mi auguro che non entrino mai più in uno stadio, dice il presidente della FIGC Giancarlo Abete, in riferimento appunto a questo incontro. Luca Bizzarri, del duo comico Luca e Paolo, è un tifoso del Genoa fin da ragazzino. Paolo Panceri lo ha raggiunto e gli ha chiesto un commento sulla vicenda. Non è una questione di tifoseria, mi sembra che quando delle persone riescono a bloccare un intero stadio, a fare della violenza, perché quello è quello che è successo, a fermare con violenza una partita, ci sia qualcosa che non va, ma non nella tifoseria, ci sia qualcosa che non va nella società. La cosa che fa impressione è che probabilmente, non dico tutte, ma molte di quelle persone pochi giorni fa giustamente abbracciavano la famiglia di Morosini dicendo che era uno di noi, dicendo un sacco di cose bellissime su questo ragazzo, e giuste, e poi dopo tre giorni... Ripeto, secondo me è un problema proprio della società, non c'entrano le tifoserie, è un mondo che non mi piace, quello dove con la violenza si ottengono delle cose. Ma a questo punto giocare a porte chiuse potrebbe non essere una gran penalizzazione, ma mi dispiace perché ne viene fuori un'immagine dei tifosi genuani di cui io ho fatto parte, perché io da ragazzino sono stato molte volte in quella gradinata, e che non è quella giusta, perché i tifosi genuani non sono così e non possono essere rappresentati da questi fatti. Questa è una cosa che mi dispiace molto. Ecco, possibile che, visti i tifosi, gli hooligan che sono riusciti a essere recuperati, quindi adesso negli stadi inglesi si va abbastanza tranquillamente, è possibile che in Italia non si riesca a fare una cosa come invece in Inghilterra, secondo te? Ma in Italia fondamentalmente non si punisce mai chi sbaglia, in generale questo non riguarda solo il mondo del calcio, non c'è mai la giusta pena per chi sbaglia, c'è sempre un modo per aggirare la legge, no? In questo paese, e quindi il calcio è una delle situazioni in cui la legge non è uguale per tutti, evidentemente, perché non capisco perché se io entro allo stadio vengo perquisito 80 volte e poi dopo invece continuano a succedere queste cose, non solo a Genova, in tutti gli stadi, per cui è chiaro che c'è una falla da qualche parte. Sono le 6:48 minuti e 36 secondi. Prima di andare a chiudere, una notizia di ieri sera. Le ricerche in realtà sono ancora in corso, perché tre cittadini tedeschi a bordo di una barca a vela risultano dispersi sul lago di Garda. Sono appunto in corso le ricerche con uomini e mezzi della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza. Da quel che si è appreso, i tre intorno alle 13 hanno messo in acqua la barca e poi si sono allontanati. Alle 19 la proprietaria del camping dove alloggiano non li ha visti rientrare e ha dato l'allarme. Naturalmente le ricerche sono estese su tutti i lati del lago di Garda. Vedremo che cosa succederà, se ci saranno aggiornamenti su questa notizia, ovviamente ve li daremo. Sono le 6:49 minuti e 22 secondi. Noi chiudiamo qua. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Una buona giornata, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.